Savonarola, il frate che scaricò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che, siccome era ricco e famoso, frequentava i bagni di Viareggio, che erano esplosi con lo spostamento della capitale a Firenze ed erano frequentati in maggioranza da borghesi e milionari italiani, e lette da me che, siccome sono povero e sconosciuto, non frequento i bagni di Viareggio, che però rimangono popolarissimi pur con Firenze non più capitale, anche se, a dire il vero, chi li frequenta sono in maggioranza borghesi e miliardari russi. D'altra parte, chi il tristo manda al mare non aspetti il suo tornare, e comunque il cuore dei bricconi è un mare in burrasca. Serio, capitolo 42. Silenzio! La lettera che la signoria aveva scritta in difesa del Savonarola giunse a Roma la sera del 6 marzo e il giorno seguente i due ambasciatori fiorentini, Domenico Bonzi e Alessandro Braccio, la recarono al Papa che, fattala leggere dal suo segretario, ne sembrò molto adirato e gli disse: «I vostri signori mi hanno scritto una trista lettera. Io non sono male informato perché ho letto le prediche del vostro frate e parlato con chi le ha udite. Egli ardisce dire che il Papa è un ferro rotto, che è eretico chi crede alla scomunica e che egli, piuttosto che chiederne assoluzione, vorrebbe andare all'inferno». E qui il Santo Padre, riscaldandosi sempre più nel discorso, si doleva che i signori lasciassero liberamente predicare il frate. Diceva che neppure il suo ritirarsi in San Marco era proceduto per loro ordine, aggiungendo, come egli voleva, che la predica in ogni modo cessasse. Minacciava quindi di porre l'interdetto sopra tutta la città con tali parole che gli oratori, dopo aver riferito ai 10 il colloquio avuto, concludevano: «Noi tocchiamo con mano che così seguirà veramente senza riguardo alcuno». S'erano adoperati a difendere il carattere e la dottrina del Savonarola, ma il Papa li lasciò prima parlare, poi replicò che egli non lo condannava della buona dottrina, ma sì bene perché, essendo scomunicato, non chiedeva l'assoluzione con evidente dispregio della Santa Sede. Finito questo colloquio, i due oratori si partirono ed il Santo Padre si abbandonò in presenza di molti vescovi e cardinali a tutto il suo furore spagnuolo, minacciando ogni rovina alla Repubblica e al frate, per il che molti degli astanti andarono al Bonzi e lo pregarono che volesse persuadere ai signori la necessità di prendere un qualche provvedimento e in ogni modo impedire la predica se volevano evitare qualche grave danno alla Repubblica. Piero de' Medici, infatti, andava facendo larghissime promesse e offerte per il caso che lo restaurassero in Firenze e il Papa non solo era deciso a porre l'interdetto sulla città, ma voleva anche, sotto pena di scomunica, impedire a tutti i cristiani di avere alcun rapporto coi mercatanti fiorentini. In tale e tanto disfavore si trovavano poi a Roma le cose di Firenze che gli oratori scrivevano d'essere perfino in pericolo della propria vita. Il Bonzi stesso aveva ricevuto una ferita di cui non si poté sapere altro se non che il supposto autore otteneva favore in corte e sembrava sicario dei medici. Il medesimo oratore ragguagliava di tutto ciò i 10 in una lettera del 7 marzo e il 9 dello stesso mese scriveva ai signori accludendo un ultimo breve del Papa assai più minaccioso e terribile del solito. Esso diceva: «Noi non avremmo già mai pensato che la vostra audacia vi facesse insorgere a contendere con noi circa le cose di frate Girolamo Savonarola, quasi foste a disputare una lite e non fosse invece vostro dovere di dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Oramai però è necessario di metter termine a queste lettere brevi che moltiplicano all'infinito. Sappiate adunque e tenete per certo che codesto fra Girolamo è scomunicato non per alcuna istigazione o per false informazioni, ma per la sua disobbedienza al nostro comando di unirsi alla nuova congregazione tosco-romana. Noi non lo condanniamo delle sue buone opere, ma vogliamo che venga a chiedere perdono della sua petulante superbia e volentieri glielo concederemo quando si sarà umiliato ai nostri piedi. La vostra condotta però ci ha gravemente indegnati e non saremo per fermarci mai fino a che non venga riparato l'onore e la dignità della Santa Sede che codesto vermiciattolo ha potuto col vostro aiuto offendere. Prendete adunque maturo consiglio sopra i casi vostri, già che siccome voi sarete pronti alla obbedienza, così ci piegheremo a concedervi quelle cose che ci avete chiesto per il materiale interesse della vostra Repubblica. In ogni modo non vogliate rispondere con altre lettere, ma solo coi fatti, perché noi siamo fermissimamente decisi a non tollerare più oltre la vostra disobbedienza e porremo l'interdetto sopra tutta la città per farlo durare fino a tanto che voi continuerete a prestar favore a codesto vostro mostruoso idolo». L'arrivo d'un tal Breve decise la signoria a raccogliere una pratica e il 14 marzo furono chiamati a radunarsi insieme con i magistrati 25 cittadini per ogni quartiere, i quali dopo molto discutere non seppero deliberare nulla, onde si radunarono di nuovo il 17 dello stesso mese. Quel giorno era stato scelto come proposto Giovanni Berlinghieri, nemico audacissimo del frate, ed esso, unendosi col confaloniere Pietro Popoleschi, poté riuscire a far deliberare che si inibisse affatto la predica al Savonarola, malgrado la volontà avversa di molti altri. Subito ne fu mandato avviso a Roma e in mantinente vennero lietissime lettere del Papa che lodava a cielo la signoria, faceva grandi promesse e raccomandava caldissimamente di non concedere ad alcun frate di San Marco il permesso di predicare. Così, il giorno 18 marzo dell'anno 1498 finiva la predicazione di frate Girolamo Savonarola, continuata in Firenze per 8 anni senza altra interruzione che la breve gita a Bologna e qualche scorza di pochi giorni a Prato, Pistoia, Siena e Pisa, ove sempre andava col medesimo oggetto di predicare. Nell'Avvento e nella Quaresima egli era tutti i giorni sul Pergamo, nei mesi intermedi vi saliva tutte le feste, così ogni anno venivano fuori 3 grossi volumi di sermoni. In tal modo Girolamo Savonarola spese la vita e consumò la salute per il vantaggio morale, politico e materiale di quel popolo fiorentino che ora lo condannava al silenzio. Nella vita degli individui, come nella storia dei popoli, va un'ora in cui muta affatto il corso delle cose. Allora una mano occulta e irresistibile sembra volgere in avversità tutti gli eventi. Quest'ora, non bisogna illudersi, era giunta anche nella vita del Savonarola. Ma, regia, la storia è finita qui, non c'è un finale. Ma no, c'è Brodo, torna, todo uo battazzone, date per adetti a tottato. E allora che fo, spengo tutto? Sì, dai, petti tutto.